Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rassegna stampa dei periodici di tutti i sabato mattina, qui appunto a Radio 24. Questa settimana, come molte altre settimane da mesi a questa parte, sui periodici si parla molto di crisi, ma devo dire si colgono dei segnali un po' differenti dal solito. Ad esempio, sul magazine del Corriere della Sera, giovedì scorso, è stata fatta un'interessante analisi da Marta Serafini. La parola crisi è la nuova arma della pubblicità, cioè la crisi che in qualche modo diremmo è stata sdoganata e si può usare non più con il suo portato un po' funesto, ma anche per riuscire a vendere un prodotto, e non viene più quindi nascosta dai pubblicitari stessi. Questa ci riferisce la Serafini, appunto, che questa è una tendenza che si è vista da subito negli Stati Uniti, in realtà, perché dal famoso Yes We Can, possiamo farcela, del neopresidente Obama, dice la Serafini: ora che al presidente questo slogan non serve più, ci ha pensato un'agenzia di viaggi francese, la Nouvelle Frontière, a riutilizzarlo in versione commerciale, dicendo: andare in vacanza nonostante la crisi, Yes We Can, dicono appunto quelli di Nouvelle Frontière, mentre la Hyundai degli Stati Uniti dicono: compra una nostra macchina, se rimani disoccupato noi te la rimborsiamo. Beh, uno slogan un po' curioso, c'è da augurarsi che chi poi acquista effettivamente questa macchina non abbia bisogno di ricorrere alla promessa pubblicitaria. Ma da questo lavoro poi la Serafini, da questa notazione sugli Stati Uniti, si espande anche sul mercato italiano. Effettivamente abbiamo visto comparire nelle ultime settimane un cambio nella strategia comunicativa. Sintetizza il sommario dell'articolo della Serafini questo concetto: non fa paura la parola crisi, anzi scatena i creativi, entra in slogan, jingle e spot, aiuta a vendere viaggi, letti e automobili e persino l'orlo ai pantaloni, perché c'è appunto il caso di un sarto che su un livello naturalmente un po' più locale ha usato questo slogan: dall'orlo della crisi all'orlo del successo, appunto cercando di coniugare i due elementi. Ma naturalmente c'è un motivo molto puntuale, molto particolare per parlare di crisi, ed è, l'avrete vista su tutti i giornali, l'uscita della enciclica di Benedetto XVI del Papa, Caritas in Veritate. È un'enciclica che non si occupa di crisi, naturalmente si occupa di economia più in generale e di cosa debba fare l'economia, ad esempio cosa debba fare l'impresa. Sull'impresa avrete visto sul Sole 24 Ore, sugli altri giornali, il Papa ha avuto modo di lanciare dei richiami chiedendo profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l'impresa. Questa enciclica, ve lo segnalo, è distribuita questa settimana con Famiglia Cristiana, quindi se le anticipazioni dei giornali vi hanno incuriosito, il consiglio di leggere il documento integrale, l'enciclica integrale che trovate con Famiglia Cristiana di questa settimana. Non è l'unica offerta però che si occupa di crisi in questi giorni, perché anche il Sole 24 Ore proprio da questa mattina ha raccolto in un volume gli articoli che sono stati intitolati Lezioni per il futuro. Rapidissima spiegazione per chi magari non ha seguito tutti i giorni la pubblicazione di questi articoli sul Sole 24 Ore. È una serie, sono stati raccolti appunto gli articoli apparsi con questo unico argomento: lezioni per il futuro, le idee per battere la crisi, articoli di esperti italiani, ma soprattutto direi stranieri, che sono intervenuti e hanno sia analizzato le cause della crisi, prima finanziaria, poi economica, e hanno dato le loro ricette, le loro indicazioni per trovare i modi di superare, di andare oltre la crisi e in qualche caso anche di sfruttarla a vantaggio. Il volume è in vendita da questa mattina con il Sole 24 Ore, in allegato al Sole 24 Ore, è introdotto da una prefazione del nostro direttore Gianni Riotta, che appunto è intitolata Nel caos della crisi il mondo sogna l'equilibrio, e il primo articolo che apre la raccolta è l'articolo di Guido Tabellini, rettore del Università Bocconi, che fa un'analisi appunto di come si è evoluta la crisi. Dice: una crisi di queste proporzioni, leggo dal dal volume non può essere scaturita esclusivamente da errori nella gestione del rischio. La ragione è che gli investimenti ad alto rischio erano relativamente piccoli rispetto alla dimensione complessiva dei mercati finanziari mondiali. In molti si aspettavano che la bolla immobiliare americana prima o poi sarebbe scoppiata, ma ben pochi immaginavano che ciò avrebbe travolto i mercati finanziari di tutto il mondo. Quindi si dice Tabellini, se ciò è successo è perché hanno operato importanti meccanismi di amplificazione degli shock. L'analisi, appunto, con corredata di grafici, tabelle, numerosi dati, è su questo volume Lezioni per il futuro, le idee per battere la crisi, che trovate con Il Sole 24 Ore da questa mattina in edicola. E sempre parlando di crisi, ma un risvolto un po' particolare, l'ho trovato sul Mondo, il Mondo di questa settimana, perché i notai italiani, analizzando appunto anche da parte loro le cause che possono avere scatenato la crisi o amplificato la crisi, hanno segnalato l'assenza di quello che hanno chiamato un gatekeeper, un garante di trasparenza e legalità nel mercato americano. La mancanza di questo gatekeeper, che potremmo tradurre molto approssimativamente con controllore preventivo, ha poi portato a questa esplosione dei mutui immobiliari e a questa esplosione poi anche degli strumenti finanziari che ci sono, ohimè, rovinati poi addosso. L'idea di cui si fanno portatori i notai italiani è che il sistema, appunto, del notariato, di questo controllo preventivo, sia utile per avere un soggetto indipendente che certifichi in rappresentanza dello Stato la titolarità, lo status giuridico dei beni oggetto di transazione. La tesi è se avessimo avuto questo tipo di controllo preventivo, quindi rispetto agli atti che riguardavano le case in America e non ex post, cioè successivo, probabilmente avremmo potuto accorgerci prima che qualcosa non andava. Questo è quello anche che riferisce il Mondo. Appunto, la presenza di questo gatekeeper avrebbe permesso di togliere ossigeno alle falsificazioni ipotecarie, che negli Stati Uniti tra l'altro sono cresciute in modo vertiginoso negli ultimi anni. Erano 6.900 nel 2003, sono diventate 66.000 nel 2008, secondo i dati che sono stati raccolti dall'FBI. E questo, secondo appunto il notariato, dimostra che c'è un collegamento tra frodi ipotecarie, carie, frodi collegate alle case e la crisi finanziaria. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di crisi. C'è una notizia un po' più curiosa che riguarda la crisi. A Francoforte spunta il distributore di oro. L'oro, riferisce il Venerdì che abbiamo trovato ieri con Repubblica, l'oro, si sa, in tempi di crisi è l'investimento più sicuro. Ne sono convinti anche i risparmiatori tedeschi, che sono i più grandi acquirenti di metallo giallo in Europa. Così scrive Anna Lombardi sul Venerdì. Così Thomas Geisler, che è un imprenditore che ha creato già un mercato online dove commerciare il prezioso metallo, ha realizzato il primo distributore automatico di oro. È l'unico distributore automatico di questo tipo, a quanto se ne sa, esistente nel mondo. È stato installato nell'aeroporto di Francoforte. Una macchinetta battezzata Gold to Go, letteralmente oro da portare via, distribuisce foglie d'oro da 1, 5 e 10 grammi oppure monete preziose. Il distributore funziona proprio come quelli che vendono le bibite e le sigarette. Si inserisce il denaro, si seleziona il prodotto e il mini lingotto è pronto. Ha un prezzo, sostiene l'imprenditore, che è inferiore del 20% rispetto a quello delle banche. Se l'iniziativa avrà successo, Geisler è pronto a installare altri 500 distributori negli aeroporti tedeschi e svizzeri. Le macchine naturalmente sono assicurate e in ogni caso il valore dell'oro che vi è contenuto non supera mai i 50.000 euro. Effettivamente un modo curioso di proporre la vendita di oro, un metallo che, come si sa, è noto come bene rifugio, cioè utilizzato appunto in tempi di crisi. Sempre dal Venerdì, non c'entra direttamente con la crisi, ma c'entra con il lavoro, quindi di questi tempi, ohimè, qualche legame si può trovare. Addio curriculum, ci avvisa Ernesto Assante nella sua rubrica dedicata a internet. Il lavoro si cerca con LinkedIn, un social network LinkedIn, quindi qualcosa come Facebook, però molto molto più mirato, perché, spiega Sante, un tempo c'era il curriculum, cioè un testo scritto in maniera personale in cui si raccontava chi eravamo e cosa avevamo fatto di buono nella vita, dalle esperienze di studio a quelle professionali. Oggi a svolgere il ruolo dei curriculum ci pensano i social network, anzi un social network in particolare che si chiama LinkedIn. LinkedIn è scritto con il K, quindi www.linkedin.com, ha sede a Palo Alto in California, ha circa 30 milioni di utenti, ha come obiettivo quello di creare relazioni professionali sicure. Il metodo viene descritto dallo stesso Assante: ci si iscrive al sito, si compila un profilo personale completo di tutte le indicazioni biografiche e professionali necessarie, quindi si chiede a qualcuno che ci conosce di unirsi al profilo aggiungendo elementi e notizie. Naturalmente segnalazioni e raccomandazioni sono benvenute perché servono a rendere più solido il profilo professionale e ad aumentare le possibilità di trovare un lavoro nuovo in una rete di contatti che diventa così sempre più ampia. Negli Stati Uniti, la conclusione di Assante, LinkedIn è già ben radicato nel mondo del lavoro, in Europa sta crescendo, vale la pena di tenerlo d'occhio, soprattutto di cominciare a costruirsi anche il proprio network. Parlavamo di lavoro, parliamo di qualcosa che gli è collegato ma alla fine della carriera lavorativa, cioè le pensioni. Le pensioni sono costantemente un problema per i conti pubblici e direi un po' in tutti i paesi maggiormente industrializzati. Non solo da noi si discute in queste settimane del possibile intervento per l'età pensionabile di uomini e donne, in realtà il dibattito su quale sia la giusta età pensionabile in tempi in cui l'aspettativa di vita media si allunga è diffuso un po' in tutto il mondo, tant'è vero che anche le Nouvelle Observateur in una delle sue rubriche ci mette a confronto l'età del ritiro nei vari paesi, dal Giappone alla Svezia, al Regno Unito, alla Germania, alla Spagna e ovviamente la stessa Francia. Per scoprire che proprio la Francia, con una media di ritiro dal lavoro intorno ai 59 anni e mezzo, lo stato dove in questo confronto ci si ritira dal lavoro, si va in pensione prima. Lo stato dove si va più tardi in questo momento, i dati sono riferiti al 2007, è il Giappone. C'è un'età media di ritiro dal lavoro di 69 anni e mezzo per gli uomini, quasi 70, 66 anni e mezzo per le donne. Al secondo posto la Svezia, 64 anni e poco più per gli uomini, 63, quasi 64 anni per le donne. In Gran Bretagna 63 anni e 61. Da noi, come sapete, c'è una divisione 65 anni da una parte e 60 dall'altra, ma con la possibilità di sfruttare le pensioni di anzianità. Ma di pensioni si occupano anche gli inglesi, l'Economist si occupa in particolare dei pensionati pubblici della Gran Bretagna. Perché? Perché sono un problema per i conti. Rispetto ai lavoratori del settore privato, questo è il segnale che lancia l'Economist questa settimana, che stanno vedendo ridurre la loro aspettativa di pensione. Gli impiegati pubblici invece sono messi al sicuro rispetto a quelli che sono i costi reali per il sistema pubblico per mantenere le loro pensioni. Quindi c'è un dibattito abbastanza acceso in Inghilterra, nel Regno Unito, per rivedere questo sistema di tutele. E sempre in questa serie di problemi comuni a molti paesi c'è una notizia che sta proprio sull'Economist, abbastanza interessante. Si parla di privilegi dei politici, ovvero quello che abbiamo imparato a chiamare la casta, dal titolo di un libro molto fortunato. Questa volta nel mirino non finiscono i nostri parlamentari, ma quelli brasiliani, perché apprendiamo appunto dall'Economist che il Senato brasiliano ha 81 componenti, 81 senatori, ma in ogni caso questi hanno bisogno è evidentemente ironico, più o meno di 10.000 persone come staff che si preoccupi di loro, quindi 81 senatori con 10.000 addetti. Molti di questi sono amici, supporter politici del senatore e hanno diritto tra l'altro a tutta una serie di benefit, di vantaggi dovuti appunto al loro status. Gli stessi senatori appaiono, ripeto, in Brasile molto generosi nel concedere questi vantaggi. Ci sono ad esempio assicurazioni gratuite sulla salute o sulla vita, ci sono pensioni molto generose, ancora torna quindi il tema delle pensioni pubbliche, ci sono poi naturalmente benefit più noti, più tradizionali, tipo i viaggi aerei gratuiti o i soggiorni a prezzi molto molto scontati. Quindi un tema comune: i privilegi dei politici, quanto questi privilegi siano giustificati e quanto invece non siano eccessivi rispetto al loro status. E restiamo sull'Economist per un'ultima segnalazione, perché torna un vecchio sogno per la produzione di energia, l'idea di produrre energia solare dal deserto del Sahara. Ci sta provando, ce lo spiega appunto l'Economist nella sua sezione di scienza e tecnologia, ci sta provando la Munich Re, che si occupa di assicurazioni, ma che ha invitato 20 grandi industrie del settore a studiare un prodotto, un modo di produrre energia proprio dal deserto del Sahara. L'idea di impiantare pannelli solari nel Sahara è un'idea ovviamente ricorrente, avrebbe indubbi vantaggi vista appunto la posizione e la ampia disponibilità della materia prima, ma c'è il problema del trasporto. Quindi si sta cercando di mettere a punto un metodo di produzione di energia in loco che poi possa anche facilitare il trasporto. I vantaggi dati da un tipo di produzione di energia di questo tipo sarebbero notevoli, perché un'area grande, diciamo come tutta l'Austria, potrebbe alimentare centinaia di migliaia, milioni di persone, fa bisogno di energia di milioni di persone. Questa è l'ultima segnalazione che abbiamo dall'Economist. Restiamo all'estero per ancora una segnalazione che riguarda il lavoro. Torniamo in Francia con il Nouvel Observateur. Ci avvisano che i problemi dati dalla congiuntura economica stanno riguardando soprattutto i genitori soli, cioè i genitori separati. Le famiglie monoparentali, come avvisa il Nouvel Observateur, sono all'incirca 2 milioni di francesi che si trovano appunto con queste famiglie monoparentali e sono toccati più fortemente dalla crisi. Il sistema francese, tra l'altro, e questo colpisce nell'inchiesta di Nouvel Observateur, è molto generoso dal punto di vista fiscale con le famiglie, decisamente più generoso di quello italiano, e questo viene ricordato anche dal settimanale francese, che dice: la nostra politica a favore delle famiglie è una delle più generose al mondo e tuttavia non si sta adattando alla evoluzione della società. Questo è l'avvertimento che lancia Nouvel Observateur di questa settimana. E ci avviamo alla chiusura. Un'ultimissima segnalazione per un libro decisamente curioso. Abbiamo citato l'enciclica del Papa nella nostra prima parte, una segnalazione pure di argomento religioso, ma che prendiamo da Panorama, un contributo di Ignazio Ingrao. Dimmi a che messa vai e ti dirò chi sei. Camillo Langone ha scritto un libro che è una guida per fedeli sulle cerimonie liturgicamente corrette, cioè proprio una guida alle messe, che è edita da Mondadori, ci avvisa Panorama, una sorta di Michelin dello spirito, che è stata redatta da un giornalista del Foglio. Questo giornalista del Foglio, la cosa è ancora più curiosa, è in realtà un appassionato di gastronomia, quindi abitualmente consiglia, ci viene da dire, ristoranti, ma spiega Panorama: la domenica mattina prima vado a messa, poi a pranzo, quindi da questa unione deve essere venuta proprio l'idea di creare questa guida alle messe in Italia. E con questa ultima segnalazione abbiamo chiuso il nostro tempo. Io ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande e Valeria Bernardi per la regia. A sabato prossimo.